Il primo di febbraio diventerà, è diventato e diventerà sempre più la giornata del ricordo di Andrea Purgatori. Era il suo compleanno, noi lo ricorderemo anche quest'anno con tanti eventi, uno alle Cucine Popolari alle 13, insieme ai figli di Andrea Purgatori e a tantissimi cittadini che già hanno prenotato per il pranzo stesso, e con la presentazione di un libro di Daniele Biacchessi, L'ultimo volo, dedicato proprio alla storia, alla vita di Andrea Purgatori. È un libro bellissimo, perché per uno che ne sa poco, per voi giovani eccetera, è importante capire quello che un giornalista d'inchiesta come lui ha saputo fare dal 28 giugno del 1980. È stato importantissimo, ha trovato degli spiragli che ha consegnato ai magistrati, che hanno permesso ai magistrati di muoversi in maniera un po' più celere anche per quello che lui ha apportato, che penso alle dichiarazioni di McAdoo, alle dichiarazioni di Trenzio, degli americani, che insomma riuscivano a dare la possibilità di capire che non era certo fin da subito caduto per cedimento strutturale come era stato raccontato. Poi al pomeriggio faremo un momento di incontro con tantissimi giornalisti, con tantissimi direttori e giornali, di Carlino che del Corriere della Sera, più i presidenti dell'Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa, Articolo 21, con Beppe Giulietti che ci accompagna da anni, e poi con altri giornalisti tipo Barbacetto, tipo Berissi di Repubblica, e con l'introduzione, se così possiamo dire, con il saluto del nostro cardinale, di Matteo Zuppi, che ci è costantemente vicino. Poi alla sera al Modernissimo Gianluca Farinelli, come l'anno scorso, ci consegna il suo bellissimo teatro. All'interno di quella sala verrà ripresentato Il muro di gomma di Marco Risi, ma sappiamo che è la storia ed è la sceneggiatura fatta da Andrea Purgatori, è la sua vicenda umana ed è raccontata da lui in maniera esemplare, meravigliosa, splendida. La verità storica è quella che ci ha consegnato un giudice della Repubblica nel 99, troppo tardi, 19 anni dopo, ma in ogni caso ce l'ha consegnato. In 5.400 pagine il giudice priore ha saputo scrivere le cause sono, sto citando, il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto, dice, e non dichiarata, contro il nostro paese, operazione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti. Nessuno ha dato alcuna spiegazione. Questa è la frase che nelle 5.400 pagine io credo si debba sempre e comunque citare. Purtroppo il giudice priore non è riuscito, pur elencando gli aerei presenti quella notte nei nostri cieli in quegli orari, aerei americani, aerei francesi, aerei inglesi, aerei belgi, alcuni con il trasponder spento, probabilmente libici, elencando tutte queste presenze, però non ha saputo dire chi ha abbattuto chi, cioè chi è stato quello che ha abbattuto il 19 dell'Italia. Le indagini, come sapete, sono ancora aperte, perché nel 2008 Cossiga ha cominciato a raccontare la sua verità, cioè sono stati i francesi, il generale Santovito ha informato Gheddafi di non essere in quell'area, chiaramente rivendicando un tradimento, no? Un nostro generale che telefona a Gheddafi. Questa cosa a me impressiona sempre tutte le volte che lo dico, perché non ha smosso non so cosa nel nostro paese, però i magistrati hanno, come ben capite, dovuto riaprire le indagini. Speravo che anche la politica riaprisse le proprie indagini e la propria posizione rispetto a generali, appunto, che hanno tradito il nostro paese, perché telefonare a Gheddafi in quel momento era tradire, nel senso che faceva parte del blocco sovietico, noi facevamo parte dell'altro blocco, e quindi insomma chiarire queste cose sembra sempre esagerato, ma a me piacerebbe che la gente lo capisse. Ha potuto succedere ancora una volta in quel periodo, ora le carte stanno saltando fuori, moltissimi generali hanno tradito, e quindi anche in quel caso di sicuro qualcuno aveva un malinteso senso di fedeltà, insomma stava servendo qualcun altro e qualcos'altro. Il dramma è che dopo non siamo riusciti né a sbugiardarli né a trovare quello che è il vero responsabile dell'abbattimento di questo nostro aereo civile.